C'era un particolare che mi ha in qualche modo lasciato perplesso e mi ha un po' rovinato sabato mattina la legittima soddisfazione, come tutti provavo in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione nel caso Calabresi. Si trattava, non vi sembri strano, della grande foto di Adriano Sofri pubblicata in prima pagina del Manifesto, sotto il titolo a sette colonne, composto dalla sola grande parola giustizia. Naturalmente tutti i giornali sabato mattina pubblicavano foto di Adriano Sofri da solo, contrapposto al suo accusatore, più correttamente in compagnia dei coaccusati e via dicendo, ma quella era una foto abbastanza peculiare. L'ex leader era effigiato in piano americano, credo, in un ambiente ricco di quadri e di libri, anzi letteralmente traboccanti di libri su scaffali, libri alle pareti, libri accatastati sul pavimento, mentre fissava l'obiettivo leggendo a due mani un enorme volume da cui evidentemente aveva appena staccato lo sguardo. Era quella che una volta si sarebbe definita una foto d'arte, sapete, quelle che apparivano, tanto per intenderci, su quelle strane riviste come Alfabeta, e si proponevano di cogliere, se non proprio l'anima, almeno il mood del soggetto. Infatti era anche firmata da un tale Tano D'Amico, che deve essere uno che di queste cose se ne intende, e ai lettori suggeriva un'idea di consuetudine libraria, di assiduità agli studi più faticosi, di quella forma di impegno intellettuale un po' demodé propria di chi è uso maneggiare grossi tomi polverosi in ambienti pittorescamente disordinati. A me quella foto è sembrata non so come eccessiva. È vero che il soggetto, da quando ha lasciato l'attività politica, anche da prima in realtà, si è dedicato davvero agli studi e merita a pieno titolo la definizione di uomo colto, di intellettuale, ma quella foto rappresentava una sorta di quotazione beatificatoria nell'Olimpo della cultura e garantiva al colto pubblico e ai colti redattori e collaboratori che quell'ex leader politico ed ex imputato era a tutti gli effetti una persona per bene, uno di noi, anzi una persona migliore di tanti noi che, poi una gran confidenza, coi volumi antichi non ne abbiamo, che sicuramente è vero, ma lasciava il dubbio, alimentato magari dal ricordo di qualche vicenda giudiziaria passata, di che cosa sarebbe successo in caso contrario. Mi spiego, cerchiamo di essere precisi, la questione è delicata e è meglio evitare equivoci di qualsiasi tipo. Io non ho assolutamente niente da ridire su quella sentenza della Corte di Cassazione. Sono sempre stato convinto dell'innocenza degli imputati. Come probabilmente saprete, non è un segreto per nessuno, ho fatto parte di Lotta Continua fino alla fine e non ho mai avuto motivo di dovermene o di pentirmene. Non ho condiviso certe posizioni di Sofri dopo lo scioglimento dell'organizzazione, per particolare per quello che riguardava il problema cosiddetto della dissociazione, ne devo aver anche scritto da qualche parte. Non mi è piaciuto particolarmente come ha impostato la strategia processuale, ma il processo era suo, la responsabilità relativa anche. Il fatto è che qualcuno ha scritto che la Cassazione ha ristabilito, annullando le sentenze precedenti, la certezza del diritto. Io personalmente alla certezza del diritto non riesco a crederci e temo che non sia sempre una cosa ragionevole aspettarsi giustizia dai tribunali, nel senso che dubito che quella di rendere giustizia a chi la chiede sia la preoccupazione prevalente di tutte le corti di tribunale, anche se sono sicuro che l'alta corte in questo frangente specifico ha compiuto un atto di giustizia. E se in futuro questo pronunciamento avrà delle conseguenze di indole generale, riducendo il peso che nei processi di qualsiasi genere hanno le chiamate di correità dei pentiti e dei delatori vari, sarà tanto meglio per tutti. Ecco, delle conseguenze future, ho visto, si preoccupano in parecchi. Dal procuratore generale che ha sostenuto l'accusa a quasi tutti i commentatori di qualche peso che si sono occupati della sentenza. Nessuno di costoro mi sembra deve nutrire una grandissima stima per la magistratura e per i numerosi corpi di polizia che allineano nel nostro paese, visto che sono tutti sicuri che una volta eliminata la collaborazione dei delatori non saranno capaci né di individuare né di condannare uno straccio di delinquente. Con particolare riguardo a quelli che ci preoccupano di più in questi giorni, avranno i loro motivi. Io forse perché ero rovinato dal fastidio della lettura dei libri gialli, ho un'immagine mentale un pochino più articolata delle attività attraverso cui si individuano e si condannano i malviventi. E che volete, resto irrimediabilmente convinto che persino i capi mafiosi e gli amministratori corrotti abbiano diritto a un processo che non si esaurisca nella chiamata di correità da parte di qualcun altro. Per sconfiggere la mafia e la corruzione politico-amministrativa ci vuole altro che non i pentiti. Finché non avremo qualcosa d'altro, non è il caso di stracciarci le vesti o d'affrettarsi a mettere le mani avanti scrivendo come hanno fatto in tanti che sì, questa volta è andato così perché era un caso eccezionale, soffre non è mica un pirla qualsiasi, ma che i pentiti vanno benissimo e non si toccano se no guai. Ma vedete, io più che del futuro continuo a preoccuparmi per il passato. Io continuo a pensare a quelle centinaia di condanne che sono state irrorate ed eseguite in base alla legislazione premiale, in seguito a dichiarazioni ancora più contorte, contraddittorie, inaffidabili, più contraddittorie e inaffidabili di quelle di Marino. Dichiarazioni rilasciate con esausto cinismo, con inesausto cinismo, da assassini confessi recuperati a un passo dell'ergastolo, da cupi burocrati del terrorismo, da ceffi che comunque avevano molto più da perdere di Marino e molto più di lui erano soggetti alle pressioni degli inquirenti. Io mi chiedo con che faccia si possa sostenere, come si continua a sostenere, che queste parodie di giustizia abbiano aiutato in passato a sconfiggere un grave attacco alla democrazia. E della democrazia fa parte un sistema giudiziario che funzioni e che rispetti i diritti degli imputati. Con tutto questo, Sofri naturalmente non c'entra. Lui ha impostato la sua difesa sulle contraddizioni e sulle inverosimiglianze interne all'accusa e a quanto pare hanno finito per credergli, sia pure in extremis. Ma il vero problema, quello che si sono posti in pochissimi, che si è posto quasi nessuno, è perché a tanti altri non hanno creduto. Anche se di contraddizioni e di inverosimiglianze nelle dichiarazioni, tanto per fare dei vecchi nomi che tutti abbiamo dimenticato, tanto per fare qualche nome a caso, nelle dichiarazioni dei Fioroni, dei Peci, dei Barboni, di quella gente lì, le contraddizioni non mancavano certo. Forse sono cambiati i tempi, forse ha trovato dei giudici più illuminati, forse gli è giovata la mobilitazione dell'opinione pubblica che in tanti altri casi è mancata, ma anche qua bisogna chiederci perché in quegli altri casi è mancata. E forse è anche un po' vero che, come dicevamo ai nostri bei tempi, in lotta continua in altre organizzazioni consimili, la giustizia non è estranea a quella che ingenuamente chiamavamo una logica di classe, e non è tanto facile condannare in via definitiva degli intellettuali che vengono fotografati con aria assolta in mezzo a delle pile di libri. Sofri non si offenderà, è un uomo di grande intelligenza, è tutta una vita che riflette su questi temi, ci avrà pensato senz'altro anche lui. E poi il problema non riguarda voi personalmente, ma riguarda l'immagine che di voi è stata divulgata a livello pubblico. Ma ammetterete che c'è una qualche vaga possibilità che, se la sua immagine pubblica e se la sua attuale figura sociale fosse stata diversa, se fosse stato, tanto per non cercare troppo lontano, se non fosse stato un qualsiasi banale Pietro Stefani, un qualsiasi ignoto Bonplessi, un qualsiasi detestabile Marino, beh, la sentenza venerdì sera potrebbe essere stata diversa.